si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento del sabato e della domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca, quella dove i protagonisti sono gli italiani con le loro piccole e grandi storie virtuose che ci insegnano che ce la possiamo fare, si può fare. Subito i contatti per scriverci, per raccontarci le vostre buone notizie, i vostri si può fare, e potete anche commentare le storie che avete sentito in onda sulla nostra pagina Facebook si può fare trattino Radio 24. Per i più timidi c'è ancora la mail, si può fare @radio24.it. Ma iniziamo subito con qualche notizia della settimana. Prima di tutto, tagli ai costi della politica. Ogni tanto qualche cosa si muove. Siamo in Liguria, tagli agli assessori. Via 10 consiglieri e 6 assessori. Il Consiglio regionale ha approvato qualche giorno fa la modifica dello statuto che porta da 40 a 30 il numero dei consiglieri e dimezza gli assessori, portandoli da 6 a 6 da 12 che erano. La riduzione è stata votata da tutti, con la sola eccezione del consigliere Roberto Bagnasco del PDL, che si è astenuto, però poi subito dopo, impauritissimo da questa cosa, ha detto no, è stato solo un errore nel voto, un errore tecnico, anch'io sono d'accordo con la riduzione e i risparmi. Dunque tutti d'accordo in Liguria per tagliare il numero di consiglieri e assessori della regione, anche se i tagli partiranno dalla prossima legislatura, e fate tutte le considerazioni che volete fare. La prossima notizia, che parla di sostenibilità, energia, risparmio, ci porta a Bolzano, che spesso è capofila in questo, in questa filiera. Inaugurato il progetto PPP, un progetto si chiama così perché è una partnership tra pubblico e privato, dunque le 3P. Come si incentiva il fotovoltaico? In questo modo: la provincia mette a disposizione i tetti dei palazzi della provincia per le imprese che vogliono investire e non hanno spazio a sufficienza per il fotovoltaico. C'è un piccolo affitto di 7-8 euro al metro quadrato per la messa a disposizione di queste superfici. Il contratto prevede una durata ventennale e con un ammortamento stimato in 11 anni. Dunque investire nel fotovoltaico a Bolzano d'ora in poi sarà più semplice. L'ultima notizia ci porta a Napoli questa settimana, perché contro la sindrome da assenza di futuro, assenza di lavoro, insomma da crisi che viviamo in questi mesi, aprono e arrivano gli sportelli SOS Tegno Anticrisi, che si legge Sostegno Anticrisi. L'Ordine degli Psicologi della Campania ha messo a disposizione in ogni consiglio di zona, sono 10, del Comune di Napoli, i suoi psicologi per dare una mano, insomma, a chi si trova in un momento di difficoltà. La cosa interessante rispetto ad altre iniziative simili è che verranno coinvolti anche avvocati e commercialisti, consulenti del lavoro, per insomma dare una mano anche a chi sta cercando un lavoro concretamente, non solo da un punto di vista psicologico. Queste alcune delle notizie che vi abbiamo segnalato. Poi aspettiamo le vostre buone ricette per salvare l'Italia alla segreteria telefonica. Il messaggio è questo: tutti gli uffici pubblici in Italia sono aperti di giorno con le luci tutte accese. Solo se si facesse un'ordinanza, è responsabile ogni capo ufficio di spegnere le luci durante la giornata, si risparmierebbero non so 4 miliardi ogni anno. Obbligatorio accendere le luci soltanto in caso in cui proprio è necessario, in ambienti dove non ci sono finestre, altrimenti sempre con le luci spente di giorno. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Quando è stata quell'ultima volta che ti han preso quei sandali nuovi al mercato coi calzoni corti e speranza d'estate alla porta ed un sogno che più non ritrovi, e quei sandali duravano 3 mesi Abbiamo voluto cominciare così con la canzone di Francesco Guccini, l'ultima volta che, l'ultima nata tra l'altro, che impazza sul web, non so se possiamo dire impazza per una canzone di Francesco Guccini, però insomma è un'anteprima perché il disco uscirà tra qualche giorno ancora, perché la prima storia di cui parliamo oggi ha a che fare un po' con le tradizioni, con il buon senso, con le cose passate, così come narra anche questa canzone. L'iniziativa è stata premiata qualche giorno fa, anzi no, è stata candidata al premio, anche se il premio l'hanno vinto altri, ma non importa, premio Non Sprecare 2012 al Festival della Scienza, e il candidato era Nonno Carlo, in arte Carlo Lischetti. Buongiorno, benvenuto. Che buongiorno insegna a tutti, buongiorno. Ai bambini a riciclare, inventa riciclando, cioè non si butta via niente, ci si diverte e si scopre come riutilizzare le cose usate, le cose passate, qualcosa che nel passato forse si faceva di più, Nonno Carlo, adesso invece va un po' meno di moda. Lei è contento prima di tutto di essere stato candidato a questo premio, che poi hanno vinto altri, tra cui anche il ministro dell'Ambiente Clini? Sì, candidato contentissimo, e purtroppo sono arrivato tardi per il prossimo anno, parteciperò per il cioè è arrivato anno, tardi alla consegna, no, è arrivato sì, tardi? Sì, sono arrivato tardi perché ho partecipato al mese di settembre, sì. Perciò era quasi chiuso. Non ha fatto in tempo a raccogliere anno. Consensi sufficienti per poter vincere, ma io sono convinto che la sua storia potrebbe vincere un altro premio di questo tipo. Però certo, io riempio di cose proprio il portale, vedrò di mandare tante di quelle cose che... sicuramente si ricorderanno di me. Senta, lei appunto negli articoli che parlavano di questa iniziativa viene presentato come Nonno Carlo, che va nelle scuole ad insegnare appunto ai bambini a riciclare con divertimento, con gusto. Che cosa fa lei? I ragazzi impazziscono per questo progetto che ho, perché non è solo manualità ma è anche sapere inventare le cose, cioè il bello di fare con le proprie mani, costruire qualcosa di unico che prima non c'era. Per esempio? Il progetto Educazione Ambientale stimola la capacità di invenzione rivolta ai bambini della scuola elementare, dell'infanzia, sì, e anche dei bambini più grandi, insomma dei ragazzi più grandi. Poi si stimola la fantasia. Sì. Insegna a conservare i materiali, a gettarli nel posto giusto. Ecco, ma prima ci faccia qualche Nonno Carlo, qualche esempio, non so di che cosa, una delle ultime cose che ha insegnato che è piaciuta particolarmente. Beh, sicuramente piace molto lo yo-yo perché ne faccio centinaio. Lo yo-yo utilizzo dei tappi, qualsiasi tappi di bottiglia, di vasetti, sì, della marmellata, bottoni addirittura. Lo yo-yo più piccolo è un bottone da 2,5 cm, 25 mm. Quello diciamo che è il più piccolo al mondo. Non ne ho visti altri. Senta, ma i ragazzi poi naturalmente giocheranno con lo yo-yo, specie se lei crea dei giochi, è chiaro che l'avventura del riciclo diventa più interessante. Come reagiscono però a queste sue proposte? Reagiscono che poi si portano a casa il gioco e per una settimana hanno in mente ancora i miei giochi, ma chiaramente io voglio che loro siano i protagonisti, cioè io gli do l'input e poi dopo loro dico sempre: ragazzi, mi raccomando, tirate fuori l'idea, accendete la lampadina, perché il domani il lavoro è vostro, siete voi. Io adesso sono un vecchietto, ma voi certo, siete la nuova anche generazione. Perché sono le cose che si imparano magari a quell'età, quando si fanno le scuole elementari, che poi ci restano impresse tutta la vita. E noi dobbiamo fermarci qua, intanto però lo ringraziamo Carlo Lischetti, in arte Nonno Carlo, candidato al premio Non Sprecare 2012, premiato al Festival della Scienza, non premiato però se lo meritava, e ci piaceva questa storia di inventare riciclando. Chi si fosse appassionato a questa storia, i contatti li abbiamo dato, grazie. A presto, insomma, continui così ad appassionare i ragazzi. Arrivederci. Grazie, a risentirci. Insomma, lo ritroveremo sicuramente, Nonno Carlo, perché ci piaceva questa sua storia. Lo facciamo testimonial di Si può fare, tra poco, dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insomma, avete sentito la storia di nonno Carlo, inventare riciclando, un'iniziativa che ci piaceva, un testimonial perfetto di un programma come questo. Si può fare, lui che non si arrende mai, ha fatto mille lavori nella sua vita e adesso, giunto all'età della pensione, si diverte ad insegnare ai bambini a riciclare le cose, a non buttarle via e a divertircisi su. Adesso, se il lavoro non c'è, me lo invento. Tu hai visto la luce? La banda! Tu hai visto la luce? Quale luce? Lui ha visto la luce! Sì! Sì! Ha visto la luce! Let's go! Eh già, perché se il lavoro non c'è, si può sempre sperare di vedere la luce e di inventarsene uno nuovo di zecca. È quello di cui stiamo parlando da qualche settimana. Qua si può fare, insomma, casi di persone che a un certo punto si danno una smossa e si inventano qualche cosa che non c'era, però senza arrendersi alla crisi. Questa è la storia di, lo salutiamo subito, Luigi Adinolfi, è un imprenditore di Oriolo. Siamo nel Cosentino, ai confini con la Basilicata. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Luigi, lei anche lei ha avuto un premio, premio Oscar Green nazionale qualche settimana fa per il suo amaro Ulivar, un amaro nato dalle olive. Lei ha ripescato un'antica ricetta dei suoi nonni, dimenticata, che nessuno faceva più, ha scoperto che ne viene fuori un prodotto, un amaro, appunto una bevanda alcolica che piace e che addirittura lei adesso esporta in giro per il mondo, ma primariamente la vende nel suo agriturismo. Lei ha dei terreni, degli ulivi. Ci racconti un po', per tutto, com'è questo amaro? È buono? Questo lo potrà dire chi lo assaggia e chi lo ordina. Certo, il riscontro che abbiamo avuto. Noi in Toscana si dice, diciamo, chi si loda si imbroda, quindi lei per primo non vorrà esporsi, però insomma ci dica che gusto ha. Sì, c'è da dire che i riscontri che abbiamo avuto inizialmente soltanto nell'agriturismo e poi anche al di fuori sono stati positivi, sono stati quelli che ci hanno spinto poi a credere in questo prodotto. C'è da dire che l'Amaro Ulivar nasce nella contrada Santa Marina del comune di Oriolo, che è nell'Alto Ionio Cosentino, quindi una terra rurale, verace e contadina che si trova a metà strada tra il Parco Nazionale del Pollino e le spiagge del Golfo di Taranto. E qui, quando veniva fatto per la prima volta questo prodotto, altro non c'era che una masseria in cui vivevano i miei nonni e dove loro, in occasione di cerimonie di famiglia, quelle che potevano essere un tempo anche i fidanzamenti ufficiali che si facevano in campagna, rispolveravano un po' questa ricetta. Sì, realizzavano questo prodotto altamente alcolico, molto forte, in cui miscelavano ingredienti derivati dalla pianta dell'ulivo. Sì. E trovavano un riscontro positivo, in cui nei primi assaggiatori di questo prodotto, che erano semplicemente i parenti dei miei nonni. Successivamente i miei genitori hanno proseguito questa attività nell'azienda agrituristica e lì offrivano il prodotto, anche io offrivo questo prodotto come un semplice amaro della casa. Sì. E lì avevamo occasione di provarlo con clienti che venivano un po' da tutta Italia e alle volte anche dall'estero. Mm-hmm. Questo grazie al sito internet che ci faceva avere prenotazioni con gente che veniva anche da fuori. Il riscontro è sempre stato molto positivo, il prodotto destava curiosità e anche apprezzamento. Cioè, tutti a quattro zampe dal suo agriturismo, tutti ubriachi di amaro Ulivar. No, l'effetto inebriante ha aiutato forse anche tante. Però lei mi diceva che in realtà rispetto ai gusti del passato questo amaro era molto alcolico, insomma si andava giù forse un pochino più pesanti con la cucina in generale e anche con il bere. Adesso lei l'ha addolcito, l'ha aromatizzato, l'ha reso più equilibrato per palati anche un pochino più sofisticati, forse come quelli di oggi. Non ci vuole così dire, perché è quasi l'ora di pranzo, magari ci viene voglia di assaggiarlo. Certo. Sì. Sì, allora il prodotto, l'Amaro Ulivar, deriva da questa ricetta. Le indicazioni sono sempre quelle che risalgono dalle ricette tradizionali dei miei nonni. La versione, quello che è nato adesso, è un prodotto, diciamo, più delicato, adatto anche a palati meno abituati a prodotti così forti come quello che poteva essere un prodotto così, diciamo, contadino e fortemente alcolico. Mm. Certo, sì. Questo prodotto ha circa un secolo di età. anche se c'è da dire a onor del vero che nella Divina Commedia nel 1300 già Dante Alighieri accennava ad un liquor d'olivi, quindi forse qualcuno prima ancora di noi era arrivato a realizzarlo, poi è nato così, diciamo, siamo arrivati adesso con questo prodotto che comunque è radicato nell'Altolegno cosentino, cioè da dire questo, prodotto enogastronomico che sia fortemente legato al territorio e alla terra di appartenenza, riscontra, almeno ho avuto modo di sperimentare anche fuori, un apprezzamento positivo in chi lo incontra, sia quando può apprezzare magari la qualità del prodotto, ma anche della storia del territorio che lo accompagna e che gli fa da contorno. Insomma, un prodotto che ha sapori, tradizioni e si sente proprio anche all'assaggio. Ma come succede? Ci racconti un po', perché insomma che la cosa ci incuriosisce e può anche essere un messaggio più positivo, più generale anche per altre persone che ci stanno ascoltando, che un'idea così nata da una tradizione, anche da una voglia di romanticismo, di recuperare un qualche cosa del passato, magari appunto una sera lì davanti a un bicchiere di vino, invece poi diventi una vera e propria produzione, un qualche cosa di concreto che è successo e che quindi la mette anche sul mercato. Come si passa dall'idea alla realizzazione? Sì, quello che ci ha motivati, ha fatto sempre nascere questo desiderio di portarlo al di fuori dei confini dell'azienda agricola e dell'agriturismo, era proprio il discorso di avere un riscontro positivo in persone che venivano da tutt'altra parte del mondo, da stranieri, da persone che venivano dal nord Italia, dal centro Italia, c'era sempre una linea comune, un filo conduttore, tutti restavano sorpresi, ammiravano il prodotto e restavano stupiti da questo odore particolare di frantoio, ecco, che capitava quando si assaggiava il prodotto. E soprattutto all'inizio noi non dicevamo mai con che cosa era fatto, lasciavamo che fosse il cliente a indovinare, e quasi mai le persone, forse una su 10 come percentuale, riusciva a capire che il prodotto derivava dall'olivo e aveva questo... Certo, perché l'idea può sembrare bizzarra, insomma, di una bevanda che derivi dalle olive, che sia diversa dall'olio però e che sia anche più gustosa. Senta, fra l'altro voi siete impegnati proprio in questi giorni nella raccolta delle olive, ci si diverte anche in compagnia, in famiglia, però mi diceva anche lei è anche faticoso, la sera si arriva stanchi morti. Sì, la sera si arriva abbastanza stanchi e provati, però diciamo che la conduzione familiare, anche il momento di condivisione di attività dell'agricoltura anche con i propri familiari, è un momento che alle volte ti può anche rinfrancare lo spirito, per quanto possa stancare il corpo, ed è una cosa che poi apprezza tantissimo soprattutto il vero amante dell'agriturismo, quindi il cliente che viene e che partecipa con piacere all'attività agricola e che poi magari la sera a tavola ha la possibilità di degustare anche il prodotto a cui ha lavorato lui stesso durante il giorno. Quella, diciamo, è un po' la specificità di questa attività, che poi ti dà un riscontro soddisfacente anche la sera quando sei stanco, magari ritorni a casa. Questo sì, questo è vero. E va bene, insomma, allora vi lasciamo alla raccolta lì delle olive, vorremmo esserci anche noi a stancarci un po', ma anche a respirare aria buona e a finire con una bella cena tutti insieme, come credo che farete voi e sicuramente in questi giorni nel vostro agriturismo. Io la ringrazio, Luigi Adinolfi, imprenditore di Oriolio, siamo nell'Alto Ionio, Amaro Ulivar, un'idea così per superare la crisi, un prodotto che adesso funziona e lui esporta anche all'estero. Tra l'altro mi diceva che ha in mente di mettere su un e-commerce, cioè di venderlo anche tramite internet. Sì, stiamo strutturando un sito web aggiornato che sia riagganciato anche ad altri portali di prodotti enogastronomici di qualità. Questo perché comunque le telefonate... Ormai tanto si fa così, bisogna vendere anche su internet, perché questa è insomma il presente. Grazie per essere stato con noi, Luigi Adinolfi, grazie. Grazie tante. Adesso, prima di fare una pausa per le informazioni del giornale radio, come di consueto andiamo a sentire la notizia si può fare nel mondo, la più bella che siamo riusciti a trovare questa settimana. Sentiamo. And the winner is... Winner is The People Supermarket. Il premio di questa settimana arriva fino al quartiere di Holborn, a Londra, dove da poco più di 2 anni il The People Supermarket ha cambiato il modo di pensare al mercato alimentare. La sua filosofia si riassume in una frase: niente vada sprecato. All'interno del grande negozio si vendono solo prodotti locali e rigorosamente biologici. Tutti i prodotti prossimi alla data di scadenza sono cucinati e rivenduti ai clienti ad un prezzo contenuto. I piatti non venduti a fine giornata vengono dati in beneficenza e usati per concimare un terreno dal quale si ricavano fiori che sono rivenduti nel supermercato stesso. Per evitare odiosi sprechi di cibo, anche diversi rivenditori all'ingrosso donano al The People Supermarket i prodotti prossimi alla scadenza. È una donazione fatta a cuor leggero, dato che il negozio funziona come una cooperativa sociale e i suoi profitti vengono utilizzati per finanziare i progetti della comunità locale. Dietro questo progetto antispreco ci sono 500 soci membri che lavorano in un negozio per 4 ore al mese, in cambio di uno sconto del 10% sui prodotti. Il The People Supermarket è già in fase di espansione, sta per diventare anche un ristorante e aprirà presto altri negozi a Londra. Questa esperienza dimostra che guardare al mercato da una prospettiva differente si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, l'appuntamento con l'altra cronaca su Radio 24, quella dove i protagonisti sono, siete voi con le vostre storie che ci insegnano che si può fare, storie positive. Noi aspettiamo anche le vostre segnalazioni sulla pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, le vostre buone notizie. Oggi siamo partiti all'insegna della sostenibilità con la storia di Carlo Lischetti, in arte nonno Carlo, che con Inventar Riciclando va nelle scuole e insegna ai bambini a riciclare con divertimento. E poi un progetto che è stato candidato al premio Non Sprecare di quest'anno. Chi invece un premio l'ha vinto davvero era l'altro nostro ospite, un imprenditore di Oriolo nell'Alto Ionio che produce l'amaro Ulivar, che sta conquistando l'Italia e il mondo. Un amaro prodotto dalle olive, strano a dirsi, ma un'idea nuova che funziona. Adesso andiamo a Ferrara. Voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando di zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo, yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche stavolta non ci credo. Vuoi andare a casa? Sta nascendo la prima factory della cultura e della creatività in Emilia-Romagna. Dopo mesi di incubazione, l'associazione non profit Grisù ha presentato poco tempo fa, lo spazio Grisù, una ex caserma dei Vigili del Fuoco in centro a Ferrara, che sarà trasformata in una casa per creativi. Insomma, questa è la mia casa, dice Giovanotti, e questa sarà la casa per molte imprese, per molti artisti e per molti aspiranti designer. E insomma, un'idea berlinese, ci diceva il suo ideatore Fabrizio Casetti, che salutiamo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie. Imprenditore edile, nonché presidente dell'associazione Grisù, che ha lanciato tutto questo progetto. Voi cercate in sostanza da un po' di tempo con questo progetto, che però si sta finalizzando, sì, di dare una casa appunto a architetti, a imprese, chi lavora nel mondo dell'arte e della cultura e che può aver bisogno di uno spazio lo troverà gratis a certe condizioni qua da voi. Uno spazio che vi ha messo a disposizione la provincia. Di che si tratta, Casetti? Praticamente abbiamo cercato di trovare uno spazio dove poter collocare tutti coloro che usano l'arte e la cultura come materie prime. Quindi tutte quelle attività imprenditoriali, diciamo produttive e realizzative, che richiedono uno spazio fisico dove poter cominciare, dove poter installarsi, uno spazio fisico che sia di rappresentanza, che sia ben localizzato e che possa essere anche vicino ad altri che nella stessa maniera operano nello stesso ambito, in modo anche da poter trovare nuovi spunti e nuove collaborazioni. Uno spazio di 4.000 metri quadri, mi diceva, ci staranno dentro 30-40 aziende, state cominciando ad avere le prime richieste. Il 21 novembre credo farete una prima cernita, una prima conta, anche pubblica forse, se ho capito bene. Sì, il 21 novembre cominciamo, riuniamo il comitato, che abbiamo cercato di comporre un comitato il più eterogeneo possibile negli interessi e nelle competenze, in modo da poter valutare al meglio tutte le proposte, le richieste che ci arrivano, perché sono, come sappiamo, questi nuovi mestieri, nuove attività, sono le più disparate, come si diceva, sono tutti quei mestieri che non riesci a spiegare a tua madre. Questa è una bella definizione, no? Esatto. Cosa fa l'artista? No, nemmeno, il designer. Il designer, il creativo, tutti coloro che in qualche maniera sfruttano la testa per riuscire a produrre e a crearsi un mestiere, perché lo scopo al giorno d'oggi è quello di riuscire ad inventarsi un lavoro. Ecco, però lei mi diceva, mi faceva notare giustamente prima di fare l'intervista, che il mestiere che uno non sa spiegare alla mamma, detta così fa ridere, ma può sembrare anche, ma di cosa fanno questi? Un centro sociale? No, perché le imprese a cui voi vi rivolgete, e il mercato c'è, sono quella filiera di neoartigianato che sta rinascendo e che, basandosi su certe tradizioni ma rinnovandole, rappresenta, come diceva lei, anche una risposta a questa crisi. Vogliamo fare anche qualche esempio, così magari la mamma all'ascolto capisce meglio. Esatto, praticamente, come si diceva, tutti coloro che hanno delle competenze e che portano dalla fase ideativa alla fase anche realizzativa, quindi in Italia comunque sta nascendo, ma non solo in Italia, una grossa corrente di, lo chiamano, artigianato 3.0, cioè l'applicazione pratica di nuove tecnologie ma anche di manualità. Quindi anche il recupero non solo della parte informatica, ma anche della parte costruttiva, metalmeccanica, se vogliamo dire, comunque tutti quei lavori che portano anche ad avere il prodotto finito. Si sta molto rafforzando anche l'autoproduzione in Italia, quindi i design di piccole serie, diciamo tutto anche l'applicazione di nuove tecnologie alla realtà aumentata e quindi alla produzione di nuovi modi di fruire i luoghi archeologici o i musei. Tutti questi qua possono benissimo collaborare fra di loro e sono tutti mestieri che appunto partono da una grossa base culturale, perché bisogna avere competenze tecniche, competenze scientifiche e competenze anche umanistiche, quindi è un tutt'uno che si deve coagulare per riuscire ad avere un prodotto finito, e in Italia ce l'abbiamo. Lei mi diceva che c'è ancora tempo per aderire a questa iniziativa, certo, perché le idee non scadono mai. Esatto. Chi fosse interessato dunque può fare la sua domanda, e poi diciamo le condizioni per avere questo spazio prevedono anche una responsabilità da parte delle aspiranti aziende, perché lo spazio viene concesso, però poi uno se lo risistema, esatto, da solo, fa un investimento. Esatto, praticamente, proprio perché sono imprese culturali creative, noi quello che forniamo è uno spazio, diciamo, grezzo, uno spazio trasformabile, personalizzabile, proprio perché in un'impresa creativa il luogo stesso di lavoro diventa il primo biglietto da visita da presentare al cliente, da presentare, diciamo, all'utente finale. Di conseguenza, per un'impresa creativa avere uno spazio da poter adattare ai propri bisogni, da poter vivere al meglio, diventa molto appetibile, tant'è che proprio per questo, come diceva lei all'inizio, un'idea berlinese, sì, appunto, come il famoso Tacless di Berlino, dove ognuno entrava, si prendeva lo spazio che trovava, se lo sistemava e se lo personalizzava, sì, spontaneamente, anarchicamente, qui viene fatto proprio un po' più organizzato, passando insomma attraverso la vostra gestione. Fabrizio Casetti, presidente dell'associazione Spazio Grisù, uno spazio messo a disposizione dalla provincia di Ferrara in una ex caserma dei Vigili del Fuoco. In 20 secondi per chiudere, un'idea berlinese, una bella idea, com'è stato realizzarla a Ferrara? Ma è stato, diciamo, Ferrara è uno dei centri che si pensa dove possa ripartire anche l'economia, quindi dove abbiamo una filiera decisionale burocratico-amministrativa breve, localizzazione territoriale buona ed è anche appetibile internazionalmente, perché diciamo per uno straniero, un brasiliano o un coreano, Ferrara o Firenze sono due quartieri della stessa città. Insomma, piccolo e bello a Ferrara, Spazio Grisù, l'iniziativa l'abbiamo presentata, ci risentiremo più avanti quando capiremo quante aziende hanno trovato sostegno all'Infa grazie a questo progetto. Grazie per ora per essere stato con noi. Grazie a tutti e a risentirci. Adesso facciamo invece una pausa per il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. No, non è il programma di sport, ma siccome si parla di una competizione europea, e allora sapete com'è, una competizione europea dove si vince, adesso cercheremo di capire cosa, non si scende in campo, ma ci si impegna per il risparmio energetico, a giocare sono i cittadini contro le loro amministrazioni in una gara simbolica, un progetto giunto alla seconda edizione, Salva Energia, ne parliamo con Federico Fileni, buongiorno, benvenuto. Salve a voi. Architetto che lavora per un'azienda impegnata nel campo della filiera dell'energia, diciamo così, Cuba, un'azienda di Bologna. Ci racconti questo progetto nel quale appunto voi siete impegnati a diffondere in Italia questa iniziativa dove i cittadini in sostanza gareggeranno con le loro amministrazioni per risparmiare energia. In che modo e poi cosa si vince alla fine? Salve. Allora, i cittadini scommettono contro la loro amministrazione che riusciranno a risparmiare almeno il 9% di energia a casa, quindi sommando il risparmio di luce e di gas, sì. La gara dura 4 mesi, ovviamente teniamo conto del periodo invernale, e la stessa sfida è lanciata in altri 15 paesi europei, quindi sì. Direi più o meno in tutta Europa. E invece in Italia chi sta prima di tutto diciamo c'è ancora tempo per qualche comune che volesse lanciare la sfida, anche se siamo allora, un po' agli ultimi sgoccioli. Siamo un po' agli sgoccioli perché la gara inizia ufficialmente il 1 dicembre, sì. E dura 4 mesi. E chi sta aderendo per ora a livello nazionale? Allora, stanno aderendo numerosi comuni, sì. E tra l'altro molti comuni che hanno inserito diciamo questo progetto europeo tra le azioni del loro piano energetico. Ah, benissimo. I comuni che hanno aderito al famoso patto dei sindaci devono fare un bilancio delle loro emissioni e devono individuare delle azioni per ridurre le emissioni di CO2. Ma comuni anche grandi o qualcosa che si possa dire in modo che magari chi ci ascolta comuni di tutti i tipi. Allora, molti comuni di piccole e medie dimensioni, sì. Andiamo dagli 800 abitanti fino ai 15.000-20.000 e anche un comune di grandi dimensioni, sì. nella fattispecie Piacenza. Perché noi siamo partiti, lo possiamo dire, dalla notizia di questo progetto che abbiamo vista lanciata a San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona. Insomma, leggendo la cronaca locale è capitato di imbattersi in questo, però poi abbiamo scoperto che dietro c'è una miriade di altri, magari piccoli e medi comuni che hanno deciso di partecipare. Lei però non ci ha ancora detto cosa si può vincere partecipando. Allora. Perché gli incentivi contano, sì. Sa com'è. Allora, ovviamente ogni comune può cercare delle sponsorizzazioni per i premi, le può cercare liberamente. Noi mettiamo a disposizione diciamo alcuni premi base, però siccome si tratta di un progetto europeo che ha un suo budget, noi la cifra che c'è a disposizione la dobbiamo dividere per tutti i vincitori, quindi è difficile dire prima esattamente che cosa vinceranno, però si tratta della seconda edizione di questo progetto. Lo scorso anno hanno partecipato alcuni comuni e tutti quelli che hanno vinto da noi hanno ricevuto un kit, allora c'è uno shopper ecologico che riporta il logo del progetto, sì. E riporta anche la scritta risparmio e mi diverto, perché si tratta comunque di un gioco, anche se è un gioco con delle regole ben precise. E poi dopo abbiamo regalato loro un wattmetro, che è un misuratore. Un cosa, mi scusi? Un wattmetro. Ah, un wattmetro per misurare i watt. Sì. per la misura dei watt, la potenza, viene inserito tra, sì, tra la spina dell'elettrodomestico e invece l'interruttore, e ci dà la misura del consumo istantaneo dell'elettrodomestico. Questo è un oggetto sicuramente interessante, se uno vuole farsi del male da solo vedendo quanto sta consumando in quel momento. Si rende conto di molte cose, sì, perché, allora, dicevo, il 9% del risparmio energetico i cittadini lo devono ottenere solo attraverso il miglioramento dei comportamenti a casa. Ecco, e qua è importante fare un tipo di investimento. Bravo, è importante, però, a parte che uno gli investimenti li può anche fare, però questo è, diciamo, extra progetto, extra competizione rispetto a quello che è il salva energia, questo progetto di cui stiamo parlando. Ma quali comportamenti si possono avere, voi consigliate di avere, insomma, si sente dire spesso spegnere l'elettrodomestico, però ci faccia una breve carrellata, un breve riepilogo, così prendiamo appunti. Le cose più carine sono emerse direttamente dalle famiglie che hanno partecipato, perché poi sono in contatto tra di loro, quindi si scambiano loro stessi i consigli che funzionano di più. Io durante una presentazione avevo fatto vedere un grafico che mostrava i consumi elettrici della lavatrice, sì, che avvengono per il 90% tutti entro i primi 5 minuti, perché il lavaggio alla temperatura più alta viene eseguito immediatamente dalla lavatrice, sì, dopo sono tutti, diciamo, cicli per il risciacquo, quindi se uno imposta 90 gradi in realtà tutto il consumo ce l'ha solo nei primi 5 minuti. E quindi questa persona si è accorta, io le ho dato lo spunto con questo grafico, e quindi si è accorta che riusciva a interrompere la lavatrice subito dopo l'inizio e immetteva dell'acqua scaldata con il gas, e quindi aveva un notevole risparmio di energia elettrica. Questo può essere un suggerimento un po' macchinoso, ma insomma è efficace, perché è una lavatrice a carica dall'alto, perché altrimenti In effetti è vero, se no non è proprio possibile. Poi ci sono gli elettrodomestici che bisogna spegnere e non lasciare in stand by, anche questi, sì, possono incidere, in realtà, perché però, la sensazione è che sia sempre poca cosa, invece no. Allora, in realtà, quello che consiglio io, più che di imparare a memoria questi consigli, perché la gara dura 4 mesi ed è anche difficile tenere, come dire, alto il morale, no? Per un periodo così lungo. Quindi con questo wattmetro le persone si possono divertire a fare delle misurazioni per rendersi conto effettivamente di qual è il consumo e di quello che non è il consumo, perché questa battaglia contro, diciamo, contro gli stand-by, sì, in realtà ha ragione di esistere solo in alcuni casi. Fino a un certo punto. Senta, ma per chi abbiamo non un televisore ha di quelli, sì, ancora vecchi col pulsante, tac tac, effettivamente quello stand-by consuma. Se abbiamo un televisore di quelli nuovi a LED, quello consuma stand-by poco. In realtà non consuma. Bene, questo è un bel consiglio, ha fatto bene a dircelo. Per chi non ha il wattmetro a casa, se lei dovesse puntare su una risparmio, così per tagliare la testa al toro, uno fa un comportamento perché insomma non ha voglia di magari di perdere troppo tempo attorno a queste questioni, lei su cosa punterebbe? Guarda, una cosa. La cosa più efficace è lavorare sui consumi di gas. Il gas. Incidono per 10 volte il consumo elettrico, quindi il mio consiglio è quello effettivamente di ridurre il consumo di gas. Abbiamo il cronotermostato e capire se stiamo bene ugualmente anche a 19 gradi piuttosto che 20. Benissimo, e con questo consiglio ci fermiamo qua. Ringraziamo Federico Fileni di Ecuba, che ci ha illustrato tutto sul progetto Salva Energia. È tutto anche per la puntata di oggi. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Roberto Scaltritti in regia, e noi ci risentiamo sabato prossimo. La mia idea per salvare l'Italia è quella di valorizzare ciò che abbiamo in realtà. Dovremmo trasformare l'Italia nella California d'Europa, mettere a disposizione strutture per l'istruzione, quindi creare una serie di atenei e scuole dove tutti gli europei, e non solo gli europei, potrebbero venire a trascorrere periodi di svago, divertimento e studio, porterebbero soldi freschi e noi avremmo la possibilità di implementare tutto quello che è edilizia, indotto, quindi strutture ricettive, personale che potrebbe dedicarsi a ristorazione e quant'altro. Avremmo sicuramente, visto che siamo la patria della cultura, avremmo sicuramente un grandissimo seguito e probabilmente avremmo trovato il modo di fare soldi senza inquinarsi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.